Cosa c'è? La schiena. Ma perché fai? Ah. Ti dimentichi gli esercizi ma mattutini? No, me li dimentico, cioè proprio non li ho mai fatti. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Ecco, e bentornati anche al dopo guado del mercoledì. Ah, il dopo guado del mercoledì, perché non c'è un animale, anzi non mi ricordo proprio quale sia l'animale totem del giovedì. C'è. Quindi va bene il dopo guado come immagine, sì, insomma, sì. Sì, però non è che devi prendere in giro, eh. No, no, questo qua sembra che per te siano delle cazzate. No, non sono cazzate, non sarei così brutale, io direi cagate, che è un po' Drago, più, forse... ti sbagli, Tito. È vero, scusate. Ecco. La settimana lavorativa per milioni di lavoratori è davvero una mappa psichica per... Io non sarei così brutale, direi cagate, che è un po' meno ma cazzate. No, perché ti sbagli, perché devi pensare che la settimana, la settimana lavorativa per milioni di lavoratori è una mappa psichica perfettamente dettagliata. Una mappa psichica, sì, è difficile da dire. È molto difficile, soprattutto quando... La mappa psichica, quando sei stremato. Sei stremato, perché io sono stremato, capito? E io sono stremato, capito? Capito? Nella testa del lavoratore, Drago, esiste una planimetria precisa che corrisponde, guarda caso, perfettamente alla mia idea di settimana. Cosa mi tocca sentire adesso la planimetria? Ti tocca sentire la mappa verità, psichica, Drago. Allora, lo dimostrano tutti i commenti positivi che ci sono al video del venerdì. Quel guazzabuglio che c'è di su suoni. YouTube. No, guazzabuglio, è tutta una roba. Ci sono messaggi di tanti prigionieri. Ops, rettifico. Tanti dipendenti del terziario avanzato che sono tutti entusiasti sostenitori di questa mia fissazione per la mappa psichica. Ma tu devi vedere Facebook, che per sua natura raggruppa gente strana, c'è poco da stupirsi, poco da essere contenti. Drago, comunque oggi è giovedì, quindi è un giorno interlocutorio, no? L'unica cosa da fare è aspettare. Aspettare. Ci si mette immobili alla scrivania, si fa volare la mente da un'altra parte e si aspetta. E quando finirà questa giornata, sarà tutta una discesa verso il... Allora, visto che a Torino, durante il nostro spassosissimo show... Nostro? Spassosissimo show, visti quante S? Spassosissimo show al Salone del psichica. Libro. Sì, abbiamo detto che forse l'Italia stava superando la fase infantile, stava al fine. Ses? E stava al fine approdando a quella... Allora, visto che a Torino, durante il nostro spassosissimo show al Salone del Libro, sì, abbiamo detto che forse l'Italia stava superando la fase infantile, quella anale, e stava approdando a quella matura, quella orale, ecco, grazie a Monti, grazie all'indignazione popolare e così via, subito una notizia di quelle che invece rimettono le cose a posto, e cioè Federico Moccia eletto sindaco di Rosello in Abruzzo. Federico Moccia, quello sindaco con una percentuale nordcoreana vicina all'89% dei voti. Ma come ha fatto? Ha presentato un programma a base di amore Lucchetti. Come ha fatto secondo ma te? Ma sì, così? Però è strano, scusa, Federico Moccia è da tutti un po' considerato, non dico male, però quando si parla di Moccia tutti un po' che sorridono. Infatti ci viene da ridere anche a noi, però come Max Pezzali, come Fabio Volo, tutti a prenderli per il culo mentre loro continuano a vendere e a rappresentare milioni e milioni di italiani. Sì, capito? Però ho capito, ma Moccia, così come Pezzali, anche Fabio, no, Fabio Volo forse no, ha degli elettori adolescenti. Adolescenti, sì. Quindi gli adolescenti non votano. Lo so, però è famoso, quindi adesso tutti parlano di Rosello e del suo sindaco famoso, capito? Così. Ah, come Sgarbi con Salemi. Sgarbi a Salemi. Ma in pratica, guarda, succede così: c'è un comune in cui da due legislature governa incontrastato un sindaco. Visto che non può essere riconfermato tre volte di fila, il suddetto sindaco, a quel punto ex sindaco, chiede a un personaggio famoso di candidarsi a sindaco di quella città nella sua lista. Una volta eletto, il sindaco famoso si disinteressa di tutto e di tutti e passa il vero potere all'ex sindaco, che nell'ombra, ma mica tanto, continua a comandare. Capito? Tutto un sistema... Non è mica male, però, funziona. Non è il caso però del nostro Moccia, che anzi ha subito messo in chiaro che lui farà cose importantissime. Innanzitutto, visto che il grande successo e la ragione anche per la quale mi hanno chiamato è stata quella di avere un personaggio legato all'amore e a come sono diventato famoso per il ponte dei Lucchetti, eccetera, mi piacerebbe molto se, visto che il sindaco ha queste possibilità, che Giuliopoli e Rosello possano diventare anche un posto dove chi vuole io lo possa sposare. Ecco, questo è uno scrittore che allora, è stato chiamato a esprimere il commento sul i Lucchetti, suo... l'amore, e quindi lui li, come sindaco può sposare, quindi la gente verrà, tanta gente a sposarsi lì, e quindi gli albergatori, i ristoratori. E questo è il programma, capito? Posto. Amore e Lucchetti, te l'ho detto, un programma a base di amore e Lucchetti, e soprattutto complimenti per la grammatica, per l'esposizione fluida. E soprattutto la voce, sembrava una funzionaria dell'ufficio contratti della Rai di Roma. Ma cos'è? Ma lo senti? Cosa? No, non sono stato io, No, draga, è puzza di bruciato, senti. Ma è vero, ma sarà il tuo smartphone che piglia fuoco. No, aspetta un attimo, l'ho messo in carica con un alimentatore non regolamentare. E infatti, dai. No, ma non è quello. Sai che è successa 2 giorni fa la stessa cosa alla Camera dei Deputati? Si sentiva puzza di bruciato, bruciavano gli smartphone. No, però i pompieri non hanno trovato niente, solo una sigaretta schiacciata per terra, qualcuno aveva fumato nella zona dove era vietato, insomma. Ciò nonostante, la puzza di bruciato continua ancora adesso lì in camera. C'è mica da stupirsi. Cosa? Ma dai, ma scusa, era da un po' di tempo che dalla Camera dei Deputati si sentiva arrivare fin qui, anche su qui da noi, su a Milano, si sentiva la puzza di bruciato. Ma vabbè, ho capito, ma dai. Io mi stupisco che a Roma se ne siano accorti solo adesso. Ma sai, la puzza di bruciato, ma quando sei immerso sempre nei cattivi odori, poi non te ne accorgi, Cioè vuoi dire con la merda fino al collo? No? Ma anche. Intanto altrove. Oh, il 5 maggio i lavoratori dell'arte, aiutati dai cittadini, hanno occupato la Torre Galfa a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Era ora, perché noi dovevamo presidiare qui l'asilo, sempre in rappresentanza dei lavoratori dell'arte, altrimenti saremmo stati lì con loro a combattere, in grattacielo e lì a marcire, usiamolo per i cittadini e per l'arte, no? Solo che martedì le forze dell'ordine sono intervenute e sgomberato tutto. Su ordine del sindaco eletto popolare Pisapia, non importa, l'importante... No, non è lui comunque forse, non so. L'importante è che sembra che in realtà si siano sbagliati. Ma come sbagliati? In realtà l'ordine non era di sgomberare la Torre Galfa, ma di sgomberare il Pirellone. Ah. Hai capito? Ha sbagliato grattacielo. Intanto, 3 secondi dopo. Betz, Truss, Huss, Frunz, Spink, Dick, Ass, Steps, Schrups, Schrups, fumetti alla radio, fumetti. Hai preso una nota impossibile. Fumetti alla radio. I fumetti di Chiedo Asilo sono in rete da qualche giorno, grazie, ma ormai stanno veramente spaccando tutti i record di frequenza di visualizzazioni nel tempo dato. Nel tempo dato e però è anche nell'ambito dato, che è quello dei audio, web, video, radio, fumetti. Sono gli unici due presenti su YouTube, sono quindi quelli lì, e quindi i fumetti alla radio, i fumetti alla radio. Io ho sbagliato accordo. Comunque li potete vedere sia su YouTube che su Facebook, oppure anche dalla homepage di Radio 24. Adesso la gara della Hit Parade dei video web video comics si combatte tra lo spread e l'asino di Buridano. Per il momento in testa. E cosa vediamo? Siamo alla radio. Lo so. Sappiamo la canzone! Allora cosa facciamo? Spegna quella fare! Non spegne! Le batterie di Tom Waits! Le batterie di...